I belong to this ideas, football time, a revolution. Aspettando i mondiali antirazzisti. Dal 5 al 9 luglio la 21esima edizione a Bosco Albergati. Football time, a revolution. Aspettando i mondiali antirazzisti, quarta e ultima puntata di questo ciclo di trasmissioni ogni giovedì sui 103.100 di Radio Città Fujiko per scoprire quali sono i contenuti della 21esima edizione dei mondiali antirazzisti che ormai è alle porte. Infatti si svolgerà dal 5 al 9 luglio a Bosco Albergati e dunque siamo qui che parliamo queste settimane di quali sono i contenuti di questa nuova edizione. Oggi parleremo molto della questione che poi dà anche il nome a questa manifestazione, cioè dell'antirazzismo. Razzismo, del tema dei migranti sotto varie declinazioni, ma non solo, avremo anche interviste ai gruppi, alle band che si esibiscono ai mondiali antirazzisti, quindi insomma una puntata piuttosto ricca. Cominciamo subito con un po' di musica. Entriamo nel vivo di questa ultima puntata di Aspettando i mondiali antirazzisti e andiamo a scoprire quali sono i temi in discussione nei panel che sono previsti a Bosco Albergati. In particolare venerdì 7 luglio alle 18.30 in piazza antirazzista si terrà questo incontro Mediterraneo da Mare Nostrum a Mare Chiuso. Interverranno Stefano Liberti, giornalista che conosciamo, ha collaborato anche con Internazionale, Silvia Stilli di Aoi e Filippo Fossati che è un parlamentare, e modererà Margherita Romanelli del GVC, con cui siamo in collegamento telefonico. Buon pomeriggio Margherita. Buon pomeriggio a voi. Titolo insomma già la dice lunga, da Mare Nostrum a Mare Chiuso. Di cosa si parlerà in questo incontro? L'incontro ha l'obiettivo di focalizzare e chiamare un po' l'attenzione a un dibattito attualmente in corso, cercando di portare le voci poi concrete di chi certe cose le vede e le tocca. Il dibattito è quello che è relativo appunto alla scena degli ultimi mesi ed è inerente al fatto dei salvataggi in mare rispetto a tutte le imbarcazioni più o meno di fortuna di migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo per fuggire da guerre e carestie e cercare verso l'Europa una via di salvezza. Sappiamo che da alcuni mesi appunto si è aperta un fronte molto polemico sul lavoro delle ONG nel Mediterraneo e rispetto a questa cosa ci sono state delle azioni, delle dichiarazioni, non ultima quella di non far attraccare di queste ultime ore le navi delle ONG nei porti italiani. Noi riteniamo che sia necessario porre questo tema, la discussione al dibattito con degli interlocutori che siano informati e che facciano questo lavoro anche di mestiere, quindi possano dare da tanti punti di vista diversi un'informazione più corretta e più concreta possibile. Questo tema, come dire, assume anche dei caratteri paradossali, perché qui stiamo parlando di salvataggio di vite, insomma, quindi dovrebbe essere un diritto fondamentale, e le ONG sono state oggetto di attacchi in cui, nella migliore delle ipotesi, si sosteneva che la loro presenza sarebbe un fattore di attrazione per le partenze dalla Libia soprattutto. Ma è così? Il problema è a monte e da un'altra parte. Nasce le ragioni di tutta questa situazione, nascono da situazioni nei paesi da cui queste persone scappano insostenibili, quindi il nodo del perché le persone prendono una via così pericolosa come quella del Mediterraneo. Ricordiamo che lo scorso anno sono morte 6.000 persone e è il mare più mortifero al mondo attualmente, e quindi le ragioni vanno rintracciate tutte nelle cause relative alle partenze, perché le persone devono fuggire dalle proprie case. L'azione che fa le ONG sul Mediterraneo è un'azione che va ad inserirsi in un vuoto in cui gli stati dovrebbero intervenire. È un diritto quello del salvataggio delle vite in mare, non solamente per la dichiarazione dei diritti umani e la protezione appunto dei rifugiati, ma anche per il diritto del mare. Quindi in una situazione in cui questi diritti non vengono esercitati, c'è un vuoto, le ONG stanno rispondendo. Nel caso in cui sarebbe auspicabile, nel caso in cui fossero gli stati a riattivarsi come dovrebbero rispetto a questo problema, chiaramente non ci sarebbe neanche la necessità delle ONG. Il problema degli scafisti non è certo determinato dal fatto che ci sia qualcuno che salva una vita in mare, perché è loro compenso di fatto è già stato pagato nel momento in cui queste persone lasciano le coste. Pertanto, che vada o non vada paradossalmente a buon fine, di fatto loro hanno già avuto il loro compenso. E comunque la lotta al traffico di esseri umani viene sconfitta in maniera completamente diversa, viene sconfitta aprendo dei corridoi umanitari, dei canali regolari per fuggire da delle condizioni insostenibili e dei canali di migrazione, facilitare dei canali di migrazione regolare rispetto ad alcuni criteri gestionali che sono gestibili. In questo caso nell'Unione Europea in primis e anche l'Italia in qualche modo fa un pochino quel che può, sono in grado di esprimere una politica coerente rispetto a quella che è la situazione attuale, da cui poi nascono queste difficoltà. Io, Margherita, ti ringrazio per questa fotografia, spero che le ascoltatrici e gli ascoltatori siano stati incuriositi e quindi vengano il 7 luglio a Bosco Albergati ai Mondiali Antirazzisti per partecipare a questo incontro. Grazie mille e buon lavoro. Vi aspettiamo tutti e grazie mille a voi e buon lavoro. Hablo de España y me lleno de emoción. Y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas. España, la tierra del honor. Está la España de Felipe y de Aznar. La España democrática del GAL. La España de la estafa inmobiliaria. La delincuencia en la alta sociedad. Politicuchos que se inflan a robar. Los asesinos se vuelven a torear. España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Y vaya decepción en la manifestación, solo han venido los antidisturbios. Sí, gasolín, España es así, la tierra donde yo nací. Sí, gasolín, España es así, que sepas que vamos a por ti. y son currillos que no pueden ni currar. Negociaciones dignas de un neandertal. Trabajadores pagando los errores, como siempre, aunque no tiene que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar. Hemos entrado en el gran capital. Imperialismo que devora tu nevera y la vaselina en el culo bien untada. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los amperes. Torneo sé, gasolín, España es así, la tierra donde yo nací. Sé, gasolín, España es así, que sepas que vamos a por ti. Sé. Torniamo insieme ad Aspettando i Mondiali Antirazzisti. Siamo all'ultima puntata e stiamo parlando appunto di alcuni panel che si svolgono proprio dal 5 al 9 luglio a Bosco Albergati. Quando parliamo di migranti non parliamo solamente del problema del soccorso, quindi col tema dell'ONG, ma parliamo anche della vita dei rifugiati nel nostro paese e la possibilità di includersi, diciamo così, attraverso lo sport. A questo proposito, l'8 luglio, sabato, alle 18, nella piazza antirazzista si terrà il panel Liberi di giocare, Europa e rifugiati, iniziative, regole ed esperienze di inclusione sociale a confronto. A moderare l'incontro, che vedrà la partecipazione di Alessandra Morelli dell'UNHCR, Vincenzo Manco, che è il presidente nazionale WISP, Fabio Appetiti di AICE e Davide Drago della campagna We Want to Play, sarà Raffaella Chiodo Karpinski, con cui siamo in collegamento telefonico. Ciao Raffaella. Ciao a tutti. Allora, parliamo di uno dei temi che forse non è molto noto al grande pubblico, cioè le difficoltà che incontrano i rifugiati nel praticare sport. Sì, diciamo che ci sono due livelli come minimo. Uno è proprio l'accesso alla pratica e quindi la possibilità di fare sport a vari livelli, insomma anche semplicemente la partecipazione a qualche attività sportiva. E poi c'è il livello invece dello sport, diciamo così, competitivo, anche se a livelli più bassi e più alti, insomma, nelle varie categorie. Naturalmente, quando parliamo di questa seconda tipologia, abbiamo un problema strutturale che è legato alle regole, per cui è, insomma, una notizia, notizie che circolano spesso, che si vedono sui giornali, purtroppo non tanto spesso sui giornali, ma comunque che ci sono, in cui bambini o ragazzi che magari sono arrivati appunto con il percorso di rifugiati e di richiedenti asilo arrivano in Italia e si ritrovano magari anche ad andare a scuola, ma anche andare a giocare in una squadra di pallone. Dopodiché, quando arriva la domenica per giocare il campionato, rimane a casa. E questo perché? Perché in realtà, non essendo cittadino italiano e non avendo tutta una serie di requisiti necessari per essere tesserato alla Lega dei Dilettanti o ai vari livelli, alle varie categorie, questa cosa lo esclude. E questa è una cosa che noi riteniamo assolutamente ingiusta e che va superata ai vari livelli, per cui questo incontro dell'8 luglio è un po' il seguito di un altro incontro che abbiamo avuto il 13 febbraio, al quale hanno partecipato anche esponenti della UEFA e di altre della Federazione Italiana Gioco Calcio e altre strutture e istituzioni con le quali abbiamo discusso, insomma, abbiamo posto i nostri problemi, cioè non bisogna superare le regole che escludono le persone dalla partecipazione piena allo sport, in particolare nel calcio, perché stiamo parlando del calcio. Queste regole che escludono sono uguali in tutta Europa? Allora, diciamo che esiste per fortuna una serie di passaggi importanti che, grazie alla pressione delle organizzazioni della società civile, compresa la rete Fare, ma insomma tutte le associazioni, WISP e altre, We Want to Play e tante altre realtà, hanno fatto pressione sulle istituzioni, compresa la FIFA, perché assumessero che questo problema dei rifugiati non è una cosa temporanea, no? Questo processo di fuga dalle guerre o dalle condizioni climatiche esasperanti o semplicemente per la ricerca di una vita migliore. Questo, i cosiddetti migranti economici, questo non è un fenomeno che, diciamo, durerà qualche piccolo tempo, un periodo, e poi si ritornerà alla normalità. È un processo che durerà decenni, chissà quanto, forse è proprio un processo epocale. Quindi anche le istituzioni, comprese quelle sportive e calcistiche, devono adeguarsi a questo, devono dare la possibilità a tutti di partecipare cambiando le regole che attualmente ci sono. Allora, in particolare c'è questa questione che riguarda una indicazione che ha dato la FIFA di non porre barriere per l'iscrizione ai campionati ai rifugiati richiedenti asilo, perché appunto questa loro condizione può essere valutata direttamente da una commissione che la FIFA ha istituito, che serve anche, se vuoi, a evitare che ci sia anche il traffico poi di bambini o di ragazzi, perché cioè, esiste anche questo fenomeno, non è che dobbiamo dimenticarlo, no? Cioè il fenomeno del traffico dei bambini e dei ragazzi per giocare a pallone e poi insomma per pochi soldi procurarsi dei giocatori, questa è una storia antica ed è per quello che era nata questa regola che escludeva, diciamo, l'iscrizione ai campionati senza una serie di requisiti. Adesso in realtà la FIFA appunto invita tutti i paesi, quindi tutte le federazioni nazionali, a seguire un percorso diverso. La Federazione Italiana Gioco Calcio ancora non si è adeguata interamente, cioè sta adottando già delle cose, ma ancora oggi, per esempio, la squadra dei Liberi Nantes, quella costituita tutta da rifugiati, no, di Roma, partecipa, è diciamo ammessa alla partecipazione del campionato di terza categoria, però poi all'atto pratico i suoi punti non contano, per cui può anche vincere il campionato, ma i suoi punti rimangono a zero. E questa è una cosa che naturalmente, come hai detto tu all'inizio, partecipare allo sport, quello, la partecipazione sì, c'è, cioè, uno può partecipare, ma partecipa da fantasma, non partecipa a pieno, e questo non è accettabile, non ci può essere l'apartheid in questo tipo di mondo, e tantomeno nello sport, non ha proprio senso, cioè non ha senso mai in nessun luogo, ma tantomeno in una cosa in cui conta come tiri, come giochi e come partecipi, e quindi va superata, questo insieme di ostacoli vanno superati. Voglio solo sottolineare una cosa: a questo dibattito partecipa anche l'Associazione Nazionale Calciatori, e è molto importante la loro partecipazione, perché vabbè, Tommasi già da tantissimi anni partecipa, insomma, è il calciatore, no, che tutti quanti conoscete, che ha giocato nella Roma e non solo, certo. Insomma, un grande amico, un grande solidale, una persona molto impegnata sempre a sostegno dei diritti di tutti. Lui parteciperà anche, giocherà anche ai mondiali antirazzisti, e la loro presenza come associazione, come tale, è molto significativa, perché dopo tutto, se ci pensi, quali sono le altre istituzioni così importanti come l'Associazione Nazionale Calciatori Italiana che si presentano e si spendono con tutta la faccia e con tutto il loro impegno a favore dei rifugiati e dei richiedenti asilo e in generale per i diritti dei migranti? Motivo in più per esserci sabato 8 luglio alle 18 in questo panel. Grazie per averci dato questa panoramica, perché ovviamente si è stimolati ad approfondire venendo proprio al dibattito. Grazie mille. Grazie a voi, ciao, venite. Con rostro feliz, probate por favor. Torniamo insieme ad Aspettando i Mondiali Antirazzisti in quest'ultima puntata prima dell'evento che si terrà la settimana prossima dal 5 al 9 luglio. Abbiamo parlato di ONG, abbiamo parlato dei problemi che hanno i rifugiati nel praticare sport. Ora parliamo di un altro evento che si terrà ai Mondiali Antirazzisti, in particolare dalle 15 di sabato 8 luglio i mondiali incontrano il popolo Saharawi. Per parlarne siamo al telefono con Iva Lins- Anti, che è responsabile dei diritti internazionali per la WISP Emilia Romagna. Buon pomeriggio, Ivan. Buon pomeriggio, grazie dell'opportunità. Quello con il popolo Saharawi in realtà è un rapporto non recentissimo, ecco, cioè da un po' di tempo. Sì, diciamo che come WISP Emilia Romagna siamo presenti in Sahara dal 2008 ininterrottamente, portando ogni anno un progetto sportivo cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna. Non siamo soli, è un progetto di rete di diverse associazioni Saharawi che si dedicano prevalentemente alla tutela dei diritti, a una ONG e a quattro comitati della WISP Emilia Romagna che mi piacerebbe citare tutti quanti. Per la WISP Emilia Romagna partecipano il comitato di Bologna, di Modena, di Reggio, di Parma. Con ONG nostro co-partner è il CISP, mentre le associazioni Saharawi che partecipano a questa rete sono El Wali per la libertà del Sahara occidentale di Bologna, Kabar al-Aqdas di Modena, Jaima Saharawi di Reggio Emilia e l'associazione Tutti i Mondi di Parma. Questo progetto attualmente è attivo su 14 scuole nelle quali sono 6.000 bambini che ricevono l'erogazione di un servizio sportivo tre volte alla settimana nelle wilaya che corrispondono più o meno alle nostre regioni di Smara al-Ayun, che sono nei campi profughi Saharawi in Algeria, e nell'area liberata di Tifariti. Questo progetto è realizzato in loco da 45 persone a cui paghiamo anche gli stipendi tutti gli anni, di cui 30 sono donne. Inoltre vengono svolte attività in due case dello sport, che sono l'equivalente dell'impianto sportivo nel Sahara occidentale presso i campi profughi, dove partecipano mediamente a queste attività 200 bambini alla settimana. Una bella attività. Nel corso della giornata di sabato ci sarà prima una tavola rotonda e poi un incontro per un gemellaggio tra il comune di Castelfranco Emilia e proprio il territorio liberato di cui ci parlavi poco fa. Sì, diciamo che il primo blocco di incontro è fra le associazioni partner del progetto e con, speriamo, anche una piccola diretta su alcune associazioni che stanno svolgendo anche attività a favore dei Saharawi in altre città, come per esempio Jaima Saharawi, che in questo periodo sta accogliendo i bambini per le vacanze di pace, un'attività che fanno quasi tutte le associazioni che si occupano di questo tema. Mentre saranno presenti ai mondiali Kabar al-Aqdas, che porterà i bambini che sono ospiti a Modena. In questo primo blocco discuteremo un pochino di questi argomenti in modo che tutte le persone possano sapere che cosa stiamo facendo, e anche perché in quell'occasione vogliamo lanciare una campagna di raccolta fondi straordinaria per sostenere lo sport Saharawi. L'intero sport Saharawi, che riguarda circa 200.000 persone presenti presso i campi di Tindouf in Algeria, ha un costo di 50.000 euro per un anno, chiaramente. Una cifra chiaramente irrisoria se consideriamo quanto può essere il bilancio di un'attività sportiva, anche di una semplice polisportiva in Italia. A seguire invece avremo questo incontro, che in realtà è un patto di amicizia fra il comune di Castelfranco e l'area liberata di Tifariti, proposto da Kabar al-Aqdas al comune, e saranno presenti per il comune il sindaco Stefano Reggianini e l'assessore alle politiche giovanili, nonché alla consulta del volontariato Graziosi Valentina, mentre per i Saharawi sarà presente Omar Mi, che è rappresentante del Fronte Polisario in Italia. È curioso, insomma, pensare di fare anche cooperazione internazionale attraverso lo sport. Di solito si sentono altri tipi di progetti, invece anche l'attività sportiva può diventare, come dire, un'attività utile. Assolutamente sì, e ti devo dire che noi svolgiamo questa attività con esperienze non solo in Sahara ma anche in Palestina, anche in Libano e nel passato anche in Bosnia e anche in Albania e anche in Chad, ovvero in qualunque situazione sia necessario utilizzare lo sport come strumento educativo e come strumento di prevenzione dei conflitti. Quindi di fatto lo sport che noi promuoviamo è, attraverso la metodologia della WISP, dello sport per tutti, si rivolge a tutte le fasce di età fa a tutte le categorie, a tutti i generi, e è uno strumento anche per il dialogo in aree di fortissimi conflitti fra differenti nazionalità. E attualmente possiamo dire che i risultati che sono stati ottenuti sono sempre stati positivi, perché non si tratta semplicemente di giocare a calcio o a basket o a pallavolo o di fare giochi tradizionali o qualunque altra attività o disciplina sportiva, quanto piuttosto attraverso l'utilizzo appunto dell'attività sportiva e imparare a convivere insieme con gli altri. Io ti ringrazio. Grazie a te e alla prossima. Football time, a revolution. Aspettando i mondiali antirazzisti. Dal 5 al 9 luglio la 21esima edizione a Bosco Albergati. Football time, a revolution. Torniamo insieme in questa ultima puntata di Aspettando i Mondiali Antirazzisti, perché la settimana prossima, ve lo ricordo, dal 5 al 9 luglio si svolge la 21esima edizione a Bosco Albergati. Dopo aver sentito quali sono alcuni dei temi che riguardano i dibattiti durante i Mondiali Antirazzisti, passiamo anche alla parte più ludica, alla parte più divertente, i concerti. Nelle settimane scorse abbiamo intervistato diversi artisti che si esibiranno proprio dal palco dei Mondiali Antirazzisti. Continuiamo questa carrellata. In particolare, oggi le interviste sono affidate al nostro Peter Skanking, che ha raggiunto sia i Folca Bestia che i Nuju, e allora direi di andare ad ascoltarcele. Siamo in collegamento con Lorenzo, il cantante dei Folca Bestia. Ciao Lorenzo, benvenuto a Radio Città Fucico. Ciao. Allora, iniziamo parlando ovviamente dai Mondiali Antirazzisti, dove sarete protagonisti in concerto nella serata di venerdì. È la vostra prima volta ai Mondiali? Sì, sì, sì, la nostra prima volta ai mondiali antirazzisti, abbiamo già suonato lì a Castelfranco Emilia, però no, non erano i mondiali antirazzisti qualche anno fa. Però ci fa piacere di tornare e insomma, portare la nostra musica, la nostra energia solare lì con Cambrezia. Voi che rapporto avete con lo sport? Oltre alla musica, insomma, siete anche degli sportivi? Ma diciamo sì, non in maniera però professionale, senso, sì, non particolarmente, diciamo, sì, ci piace fare qualche partitella tra amici ogni tanto, e magari qualcuno corre, qualcuno nuota, ma così in maniera molto, cioè, pensiamo più, diciamo, a suonare alla musica piuttosto che alle attività sportive. Ovviamente qui non si parla solo di sport, ma anche di antirazzismo, che è il tema principale della manifestazione. Voi avete fatto una canzone antirazzista intitolata La fuga in fa, che, se correggimi se non sbaglio, era il 98. Là. Sì, sì, sì. Quindi era il 98. Sono quasi 20 anni, sì. Insomma, da quella canzone, molto bella tra l'altro il testo, parlate appunto di queste persone straniere che vengono in Italia, che si trovano, insomma, situazioni non proprio gradevoli, e soprattutto parlate di questo imprenditore di Avellino, Pasquale, che viene qui al nord sperando, insomma, di trovare qualcosa, invece trova i leghisti che lo cacciano via, e, insomma, da allora, diciamo, non è cambiato niente, solo forse i leghisti, che invece di prendersela con i meridionali adesso se la prendono con gli stranieri. Sì, forse questo sì, diciamo, purtroppo il tema del razzismo è sempre attuale, anche se sono passati 20 anni dalla nostra canzone, nel frattempo ne abbiamo fatte anche altre, diciamo, che parlano di questo tema, e diciamo sì, rimane sempre una questione che noi cantiamo nelle nostre canzoni. Infatti, a parte La fuga in fa, appunto, che è una delle nostre canzoni più riuscite, racconta appunto sia della storia di chi viene in Italia, di chi sbarca in Italia, ma anche appunto degli italiani che vanno all'estero, perché c'è uno che va a Berlino e anche lì viene preso a manganellate, e poi c'è un meridionale che va a Milano cercando di far fortuna, ma si ritrova a Pontide e anche là non viene accettato. Ma anche nel nostro ultimo disco, nel nostro ultimo lavoro, che si intitola Giramondi, parliamo proprio di questo, cioè di chi viaggia, di chi va in giro per il mondo, come per esempio la protagonista della nostra canzone, che è Esma, una cantante gitana, oppure i Baskers, che suonano portando la loro musica in giro. È un tema che diciamo che fa parte proprio di noi e del nostro modo di far musica, e lo abbiamo sempre affrontato e continuiamo a farlo ancora oggi. Tra l'altro mi hai anticipato una domanda che volevo farti, che avete infatti pubblicato da poco un nuovo EP intitolato Giramondi, è un preludio a un nuovo album che pubblicherete a breve? Sì, diciamo, sono 5-9 canzoni che abbiamo voluto far uscire quest'estate, così per dare qualcosa di nuovo ai nostri fan che ci chiedevano: ma perché non ci fate ascoltare qualche canzone nuova? Di canzoni ne avevamo parecchie, però non eravamo ancora pronti per far uscire un disco completo, quindi abbiamo fatto uscire questo EP, che è una specie di preludio per il prossimo disco, che uscirà subito dopo l'estate, pensiamo in inverno, insomma l'inverno prossimo. Come nacquero al tempo i Folkabestia? Raccontaci com'è nata la vostra band. La nostra band è nata perché facevamo, diciamo, folk irlandese, musica folk irlandese, un po' stile Modena City Rembers, anche se eravamo proprio contemporanei, diciamo, ai Modena City Rembers nei primi anni 90. E facevamo questo folk irlandese, ma un po' mischiato al punk, la nostra ispirazione era il Pogues. Poi dai Pogues ci siamo un po' spostati, abbiamo inserito delle nuove sonorità, le sonorità mediterranee, la tarantella, la pizzica, la tamburriata, e sonorità balcaniche, che ne ascoltavamo all'epoca non attraverso, diciamo, il digitale, ma collegandoci in onde medie, ascoltando Radio Tirana dall'Albania. Ascoltavamo queste musiche che non erano ancora famose, non erano ancora arrivati i film, quelli di Kusturica, e quindi ascoltavamo questi brani in tempi dispari che ci piacevano tanto, e provavamo a metterli insieme appunto alla musica irlandese, alla tarantella, e un po' anche alla canzone d'autore, i grandi di André, Conte, De Gregori, eccetera, e ma in tutto suonato sempre molto a bestia, molto lo spirito punk rock è rimasto sempre tra di noi. Voi tra l'altro nella vostra carriera avete anche battuto un record, avete messo un record mondiale per aver suonato una canzone per 30 ore di fila. Stay la Lollo Man era la canzone, giusto? Sì, sì. Raccontaci di questa esperienza, come vi è nata questa idea, insomma, di fare questo record. È nata per gioco, come un po' così una sfida che abbiamo voluto fare. Era il 2003 e il 2004, insomma, sì, tra il 2003 e il 2004, e siamo andati a Radio Popolare, che ci ha ospitati a Milano, e nell'auditorium abbiamo cominciato a suonare, diciamo, e abbiamo smesso dopo 30 ore. Questa esecuzione è stata ripresa in diretta anche per larga parte dalla radio, ed è, si è diventata una grande festa, perché pian piano la voce si spargeva e a Milano ci venivano tutti quanti, ci venivano a trovare, a fare il tifo per noi, e ci portavano da mangiare, da bere, insomma è diventato un festone. È un'esperienza veramente incredibile, perché quando si suona per tante tante ore di seguito, a un certo punto si entra in una specie di stato di meditazione, di trance, che è difficile descrivere. Infatti poi 30 ore sono tantissime, tra l'altro voi avete battuto il record precedente, era di Elio e le Storie Tese, che era 12 ore, se non ricordo sì, male. Sì, abbiamo fatto anche, sì, abbiamo fatto 30, ma nulla, quelle che prima o poi faremo 31, come dice il detto, non ho fatto 30, faremo 31, poi faremo anche questo. Infatti sì, si potrà anche si battere quel record. Si può sempre battere. Avete altri concerti, altre date della tournée, oltre a quella dei mondiali? Sì, abbiamo, diciamo, parecchie date, infatti ora te ne posso dire anche qualcun'altra. Saremo il prima, ora saremo a Corbaro, Rieti, l'1, il 2 ad Abbadia Lariana, provincia di Lecco, poi il 7 a Castelfranco Emilia, ai Mondiali di Razzisti, e l'8 il giorno dopo saremo in Puglia, quindi partiremo alla fine del concerto e andremo in Puglia, e poi il 14 a Padova, e il 15 di nuovo a Reggio Emilia, Notti Rosse, Casalgrande, e insomma poi continua tutta l'estate. Chiudiamo parlando appunto dei Mondiali Antirazzisti, del vostro concerto. Come sarà questo concerto? Insomma, farete un po' tutti i vostri anche classici, oltre alle canzoni nuove, immagino. Sì, faremo i nostri classici, le nostre canzoni, insomma, più rappresentative, tra cui la Fulipa di cui abbiamo parlato, ma tutte le nostre canzoni, e poi faremo ascoltare qualche brano nuovo, e come ci sarà la nostra solita energia, un concerto che probabilmente non si può far perdere, diciamo, bisogna venire sul palco e ballare, sudare, diciamo, quindi portarsi la maglietta di ricambio perché si suda, e venire con la voglia di divertirsi, perché al concerto del Forcabestia si salta e si balla. Va bene, allora Lorenzo, io ti ringrazio, è stato un grandissimo piacere averti nostro ospite, ci vediamo tutti ai mondiali. Ok, ci vediamo tutti ai mondiali antirazzisti. Quindi. Allora, ci vediamo ai mondiali antirazzisti e canteremo tutti quanti insieme le canzoni del Forcabestia. Perfetto, grazie mille Lorenzo. Grazie. Ciao. Di Tirana, giovane vate, nel petto aveva il fuoco, pensava che nella patria dei poeti sarebbe certo migliorato in prosodia. Quando bagnato toccò di le amate sponde, trova ad attenderlo un uomo in divisa. Disse: signori miei, lasciate che vi spieghi, nelle mie vene scorre il sangue di Montale, pur tuttavia i versi del cannone, vi dico io, non aspettò l'ispirazione. Voleva fare il musicista, a Casablanca aveva fama di virtuoso, ma che Beethoven conosceva così bene che meditava di vivere in Berlino. Ma appena lì trovò due tipi molto strani, senza capelli ed un randello nelle mani. Disse: signori miei, lasciate che vi spieghi, io come voi mi porto Wagner nel cuore. Pur tuttavia a quelle melodie lui preferì l'andante rapido con brio. Va, la fuga è in fa, ci vuol molto più coraggio nel fuggire che a restar. Comunque sia, quasi sempre più difficile andare. andar via. Bra papero, bra papero, bra papà. Senti adesso la vicenda di Pasquale, rampante imprenditore di Avellino, innamorato dello Stato federale, pensò di andarselo ad imprendere a Milano. Passava un giorno dalle parti di Pontida con una pizza, mozzarella e pummarola. Cari paesai, song l'anima leghista, disse ad un gruppo di energumeni padani. Poi penso bene di allungare la falcata, che l'idiozia non si era ancora federata. Siamo in collegamento con Marco, il chitarrista dei Nujo, a cui diamo il benvenuto sulle nostre frequenze. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko. Allora, partiamo ovviamente dai Mondiali Antirazzisti, dove sarete in concerto nella serata di venerdì insieme ai Folca Bestia. E la vostra prima partecipazione ai Mondiali Antirazzisti, questa? Sì, come musicisti sì, come calciatore no, ci siamo già stati. Ah, ok, quindi avete anche un insomma un lato sportivo, avete partecipato in passato ai Mondiali, quindi... Sì, sì, sì, alcuni di noi hanno giocato, io in particolare ho giocato un paio di volte. Poi adesso ultimamente il calcio nel mondo della musica alternativa indipendente, insomma, soprattutto a Bologna, è una cosa che va forte, no? Anche con tutto molto bello. Sì, esatto, infatti ci sono diverse iniziative, c'è anche il Alma Zabotto, c'è stato il Reno Splash, insomma anche lì ci sono partite di calcio antirazziste, sì, è molto, molto sentito in questa zona. Avete una vostra squadra proprio dei Nujo o avete giocato così in altre squadre? No, abbiamo giocato in varie squadre, una volta con la nostra agenzia Make a Dream, una volta nella squadra del May, sì, sempre con Ok, allora beh, intanto parlaci un po' dei Nujo, raccontaci come sono nati. Intanto si dice Nujo o Nuju? Perché a volte... Nuju. Ah, Nuju. Nuju, ok, che significa nessuno, dico bene? Sì. Esattamente, significa nessuno, e noi abbiamo scelto questo nome un po' per richiamarci alle vicende di Ulisse, perché noi, essendo tutti meridionali di origine calabrese in particolare, ci sentiamo un po' legati a Ulisse come viaggiatore del Mediterraneo, che noi come lui ci sentiamo insomma dei migranti in continuazione, e in questo senso anche stare, per dire, Mondiale Antirazzisti è pienamente in linea con quello che noi pensiamo e crediamo nella musica. Voi avete pubblicato il vostro quinto album l'anno scorso, intitolato Pirati e Pagliacci. Di cosa parla quest'album? Raccontaci. Sì, in realtà Pirati e Pagliacci non è il vero e proprio quinto album, perché è una raccolta in cui abbiamo messo 3 inediti e poi abbiamo risuonato alcuni brani con dei musicisti amici, che vanno da Nasty Rambler a Santino Cardamone, a Brace, a Combat degli Apre la Classe, eccetera. E quindi per noi, insomma, era un Pirati e Pagliacci, è stato un disco che ci è servito per mettere, diciamo, un punto sulla fine di un periodo della nostra musica e nello stesso tempo ripartire con ciò che vogliamo fare nel futuro. Infatti proprio in questi giorni siamo in studio al bunker da Andrea Robacchi a cominciare a incidere le tracce che comporranno il nostro vero e proprio quinto disco. E voi avete fatto all'inizio i primi 3 album, era una trilogia proprio il vostro lavoro? Sì, noi in un certo senso con i primi 3 album che abbiamo scelto proprio di farli uscire a distanza di un anno. Per noi erano un unico lavoro, nel senso ci sono canzoni che sono state scritte anche nello stesso periodo, ma che poi sono andate nel terzo album. Perché quando sono nati in luglio noi eravamo tutti quanti alla soglia dei 30 anni, venivamo da altri progetti musicali e in un certo senso abbiamo provato a fermare con le nostre parole e con la nostra musica quello che sentivamo e quello che sentiva la nostra generazione in quel periodo. E quindi ci sono dei concetti che vanno dal primo album della precarietà, nel secondo album della frenesia contemporanea e nel terzo album dell'indignazione. E noi avevamo pensato proprio, abbiamo deciso di fare un progetto del genere in cui i tre album erano tutti legati tra di loro da un unico filo, che poi è quello che c'è anche in copertina. E voi fate un genere molto meticciato, perché diciamo, avete una base folk, però avete anche molte influenze, un po' pacciancate, un po' insomma di altri ritmi. Voi come vi definite a livello musicale, semplicemente folk? Ma guarda, noi veniamo sicuramente dal mondo del folk rock, e dal quel gran calderone che è il folk rock, che può essere legato sia all'idea del folk rock americano, quindi legato più alla terra, a quello che nasce dalle radici, e quindi in quel senso per noi magari sono dei ritmi in sei ottavi, no? della Calabria, come può essere le nostre origini, ma anche altri ritmi che vengono da altre parti del mondo, prendendo un po' ispirazione dalla musica etnica e dalla musica world. Poi in realtà noi nei nostri arrangiamenti al primo piano ci sono sempre basso, chitarra elettrica e batteria, quindi una matrice molto rock, e così mescolandoli poi insieme a dei synth, anche al theremin che usa il cantante, a dei suoni elettronici, nasce un po' questo genere meticcio che è quello che facciamo noi, che qualcuno l'ha chiamato urban folk, qualcuno l'ha chiamato turbo folk, qualcuno lo chiama folk rock. A noi piace definirlo semplicemente folk rock, oppure cioè la musica dei Nuvio, perché poi non ci rifacciamo a un unico genere preciso. E voi siete in tournée attualmente, avete altre date oltre a quella dei Mondiali Antirazzisti? Sì, noi siamo in tour praticamente da marzo, tra l'altro proprio da Bologna, da Freak Out. Abbiamo fatto un tour invernale che si è concluso a maggio con tre date in Germania, e poi siamo ripartiti adesso a giugno, suoneremo ai Mondiali Antirazzisti, poi a Imola, poi a Benevento, a Salerno, a Sibari, a Mantova, insomma c'è fino alla fine di settembre ci saranno un 20-30 date in giro per l'Italia. Hai detto che avete anche suonato in Germania, com'è stata lì l'accoglienza? Anche perché appunto voi fate un genere che tendenzialmente si rifà appunto alla tradizione musicale italiana, quindi all'estero insomma non è proprio che vada molto come genere. Che accoglienza avete avuto a livello di pubblico? Guarda, noi è già la terza volta che andiamo a fare dei giri così anche in Germania, e l'accoglienza è sempre molto calorosa, perché comunque proprio il fatto che è un genere che non è molto legato alle tradizioni dei tedeschi, diciamo così, viene molto apprezzato. Poi la Germania, come possiamo immaginarla, ha un'attenzione a tutto magari più elevata rispetto a quella dell'Italia, e anche nei locali. Noi magari andiamo a fare dei locali che sono gli stessi che faremmo in Italia, come diciamo come bacino d'utenza, no? Come grandezza. Però l'attenzione che viene data al live, al palco, alle luci, all'impianto, ma anche semplicemente le persone che entrano nel locale, pagano un biglietto, comprano il CD, cioè c'è un'attenzione, poi l'attenzione con cui ascoltano la musica, la voglia anche di divertirsi, di ballare. Onestamente notiamo che c'è un'attenzione culturale verso la musica che è molto più elevata rispetto a quella che abbiamo noi in Italia. Vero, vero. Va bene, veniamo al vostro concerto, ai Mondiali Antirazzisti. Come sarà questo concerto? Farete un po' il meglio dei vostri brani, immagino? Sì, tutto questo tour, il Pirati e Pagliacci Tour, vede praticamente interamente l'album. Questa raccolta viene suonata interamente, poi magari al Mondiale Antirazzisti suoneremo un po' di meno, perché siamo ben felici di condividere il palco con i Folcabestia. E sarà un concerto, insomma, il nostro concerto è da ballare dall'inizio alla fine, è molto travolgente, molto tirato, e in cui noi cerchiamo di creare una festa e di portare un po' nel nostro mondo senza dare mai un attimo di tregua allo spettatore. Ok, ci sarà quindi da ballare, da sudare e da divertirsi soprattutto. Assolutamente sì. Va bene, grazie mille Marco per essere stato nostro ospite, ci vediamo tutti ai Mondiali Antirazzisti. Grazie a te Peter, un saluto a tutti gli spettatori di Radio. frutto, chi meglio si guarda intorno. La legge della giungla mi vuole sempre sveglio, ma credo che l'animale da palcoscenico sia meglio. La caccia aperta e siamo tutti bestie, è un vortice che risucchia lentamente l'esistenza. Che razza poco nobile, la pazienza, strappare le giornate in mille pezzi ed incollarle sugli abiti migliori e su progetti da bruciare. Come un sogno ricorrente, chiedere l'alza in un istante. Parto di prima, parto di testa, prendo la vita di petto, inutile tanto non smetto di illudermi di viaggiare, di sognare, di credersi ancora una volta, di credersi l'ultima volta. Paura persino del suo vicino, che se la vita è dura procede nel suo cammino e vive sgomitando alla ricerca di un parcheggio. Carriera indifferenza, non poteva andare peggio. Ringraziamo Peter per le interviste e ricordiamo che Peter insieme al nostro Mingo DJ faranno un DJ set nella serata proprio del 7 luglio. Con questo si conclude anche l'ultima puntata di Aspettando i Mondiali Antirazzisti. Ci vediamo a Bosco Albergati dal 5 al 9 luglio. Radio Città Fujiko sarà presente con dirette e una redazione multiculturale composta anche da rifugiati reporters, ma insomma vi aspettiamo là, venite, ciao!